poiché noi cerchiamo Dio solo quando Lui mette nel nostro cuore tale desiderio, Salmo 27,8, poiché tutto ciò che abbiamo ci è stato dato, 1 Corinzi 4,7, poiché possiamo restituire solo ciò che abbiamo ricevuto, 1 Cronache 29,14, ritengo che il mio rapporto con la parola di Dio sia un dono inestimabile, peculiare, salvifico. Per quanto posso ricordare, il pensiero di Dio è sempre stato presente nella mia vita. Fin da piccolo questa presenza era viva e mi accompagnava in tutte le situazioni della mia esistenza, sia che fossi triste sia che giocassi. Lui era lì, costantemente presente nella mia mente. Spesso mi trovavo in ginocchio da solo in mezzo ad un prato, chiedendo a Dio ad alta voce di farsi conoscere, perché ciò che conoscevo della vita non mi appagava nel profondo del mio essere. Ambivo profondamente. Conoscere e sapere, i primi elementi religiosi li ho ricevuti nel collegio dove ho trascorso la mia fanciullezza e pubertà. Avevamo un sacerdote che ci faceva l'ora di religione e trascorreva con noi, orfanelli, anche parte del tempo di svago. Giocavamo ad arce rossa, ruba bandiera ed altri innumerevoli giochi, ma sia come capo spirituale, sia come compagno di giochi, non soddisfava il mio profondo malessere e inquietudine spirituale. Avevo bisogno di altro. Fu così che un giorno chiesi a Don Guido se potevo avere un Vangelo. Non avevo certamente la conoscenza di oggi della parola di Dio, non conoscevo ovviamente l'importanza della mia richiesta. Non mi ricordo perché chiesi proprio un Vangelo, ma evidentemente nell'ora di religione si citava la parola di Dio. Il sacerdote però fece finta di non sentire. Dato che la mia richiesta era ostinata, un giorno inaspettatamente mi regalò i 4 Evangeli in formato tascabile. Ricordo che lo accettai come uno dei doni più preziosi e lo conservai in seguito gelosamente tra le cose più care. Non ricordo quanto lo lessi, come lo lessi, ma era per me un libro totalmente chiuso. Così la mia sete spirituale aumentava col passare degli anni. All'età di circa 20 anni, mentre tornavo a casa da uno spettacolo cinematografico, il mio cuore non pensava a ciò che avevo visto. Ero talmente ancora assillato dal pensiero di Dio e affamato di conoscenza che pregai ad alta voce: «O Signore, se Tu stasera mi offrissi qualsiasi cosa, io Ti chiederei di darmi sapienza. Io desidero conoscerti, desidero capire la vita che sto vivendo. Non desidero altro». Nella sua misericordia Dio mi fece incontrare delle persone che leggevano la Bibbia. Non sapevo assolutamente chi fossero, ma fui felice di partecipare alle loro riunioni. Ero soddisfatto di poter finalmente leggere la parola di Dio, anche se la gioia non era dovuta tanto alla consapevolezza che quella che si stava leggendo fosse la parola di Dio, quanto perché potevo avere l'occasione di conoscerla. La mia felicità però svanì presto, perché la mia mente e il mio cuore continuavano a non comprendere proprio nulla. La grazia di Dio mi venne incontro come sempre e nel mese di maggio del 1964 divenni un figlio di Dio, ricevendo lo Spirito Santo. Da quel momento sorse in me un desiderio indescrivibile di leggere e conoscere la Scrittura quale parola di Dio. Mentre prima della conversione dedicavo il mio tempo libero allo svago, al ballo, stare con gli amici, ora divoravo letteralmente le scritture. Mi alzavo al mattino alle 6:30, per leggere e studiare fino alle 7:30, per poi andare a lavorare alle 8. Non mancavo all'appuntamento neanche quando andavo a letto alle 2 del mattino per aver evangelizzato. Dopo il lavoro passavo ore a leggere, dedicavo il tempo libero della domenica per conoscere quello che finalmente era il più grande obiettivo della mia vita. La parola di Dio penetrava nella mia mente e nel profondo del mio essere, vivificando tutto me stesso, anima, corpo, spirito. Trovavo un piacere a leggere le scritture più grande di qualsiasi altro piacere che la vita potesse offrirmi. Ero più innamorato di un giovane che si innamora per la prima volta, provavo un senso di soddisfazione indescrivibile, forse pari a quello che prova un bambino appena nato che succhia il latte. Potevo stare un giorno senza mangiare, potevo passare una notte in bianco, ma non vi era giorno che non avessi divorato letteralmente la parola di Dio. Il bisogno di leggere le scritture era diventato pari alla necessità di respirare, e non è un'affermazione retorica. Questa esperienza durò poco più di un anno. Un giorno, inaspettatamente, la parola di Dio si chiuse alla mia mente e al mio cuore, di colpo, senza preavviso. La mia mente era nel buio più totale. Cosa mi era successo? Perché questa esperienza? Perché la parola di Dio non era più quel cibo e quel piacere di prima? Avevo commesso forse un peccato che mi impediva di avere comunione con Dio? I miei interrogativi erano senza fine. Cosa fare? Devo leggerla ancora. Perché devo leggere la parola di Dio se questa non mi soddisfa più e non parla al mio cuore? I pesi di questi interrogativi scuotevano profondamente la mia fede, la fede di un giovane credente che si trovava alle prime armi con tali problematiche. Passare dalla vetta più alta alla valle più profonda era subire un trauma e uno scossone non indifferente, e il noviziato, si sa, si paga. In questa tempesta di fede presi una risoluzione. Non importa se la parola di Dio non è più un piacere per me, non importa se la comprendo, continuerò a leggerla perché è un bene per me. Essa è la parola di Dio e, che mi piaccia o no, devo leggerla. Continuai ostinatamente a leggerla con una fatica ciclopica. Vi erano giorni che mi sembravo un ipocrita perché leggevo la parola di Dio solo per leggerla. Un libro qualsiasi si può leggere con questo spirito, ma non la parola di Dio. Altre volte mi chiedevo che senso avesse essere ostinati a compiere un gesto che non dava nessun risultato e soddisfazione. Così continuai a leggere la parola di Dio in queste condizioni non per un mese, non per due mesi, non per sei mesi, ma per quasi un anno. Ormai avevo perso ogni speranza di poter ritornare a provare le emozioni dei primi mesi di fede. Leggevo le scritture, contento solo di leggere la parola di Dio. Sapevo di camminare in un tunnel, non vedevo nessuna luce in fondo al tunnel, ma rimaneva comunque un tunnel. Aspettavo contro speranza la misericordia di Dio, il mio cuore gridava silenziosamente, leggevo con lo spirito prostrato, aspettando qualche segno di pietà. Perché Dio, io che ho sempre desiderato conoscere, mi precludi questo dono? Perché, ora che ho trovato la fonte della mia gioia e della mia soddisfazione, mi togli un piacere così immenso dopo avermelo fatto assaporare? Non ti chiedo dell'oro, la salute, solo conoscere e assaporare la tua parola. Ora comprendo che Dio provava la mia fede per vedere se leggevo le scritture perché trovavo in essa un immenso piacere o perché ciò era giusto. Quando ormai mi ero rassegnato e abituato a leggere le scritture perché erano comunque la parola di Dio, il Dio della parola mi aperse di nuovo la mente e il cuore. Un fiume di acqua viva inondò un terra arida, assetata, e tutto quello che sembrava morto riprese vita. La scrittura parlava alla mia mente, ammaestrava la mia ignoranza, consolava potentemente il mio cuore, mi dava speranza, fede, mi insegnava ad amare. Iniziavano a sorgere i santi interrogativi, ponevo domande a persone più anziane di me senza ricevere delle risposte. Cominciavo a rendermi conto che se Dio non mi rispondeva direttamente, sarei rimasto per sempre nel dubbio. Contemporaneamente andavo nelle case a presentare il messaggio del Vangelo e le persone mi ponevano delle domande alle quali io non sapevo rispondere. Così leggevo le scritture in funzione degli interrogativi e dal momento che leggevo sistematicamente tutta la Bibbia in un anno, trovavo nell'arco di poco tempo tante risposte. In questo modo le scritture diventavano sempre più preziose, più indispensabili, perché senza di esse non avevo risposte e non sapevo rispondere al prossimo. La parola di Dio diventava la mia sapienza. Ma un altro serio, importante, gravoso, fondamentale interrogativo era in agguato, minando alla base la mia fede. Trovavo nelle scritture apparenti contraddizioni che non davano serenità alla mia lettura quotidiana e limitavano il mio ministero di evangelizzazione e di predicazione. E dunque la parola di Dio tutta divinamente ispirata? Non possono gli scrittori biblici aver esposto delle loro convinzioni? Perché vi sono delle contraddizioni nella parola di Dio? Sono partito dal presupposto che la Bibbia fosse la parola di Dio, ma la mia convinzione è giusta. Quante convinzioni ritengo giuste e alla fine risultano sbagliate? Perché la mia convinzione che la Bibbia sia la parola di Dio deve essere giusta? Avevo bisogno urgentemente di una risposta a questi interrogativi. Mi rivolsi ai credenti più maturi di me e non ebbi risposte convincenti. Le loro spiegazioni non scendevano nel profondo del mio essere, poiché col passare del tempo e con l'aumentare della mia conoscenza, tanti interrogativi avevano una risposta. In seguito compresi che molti problemi biblici erano il risultato della mia ignoranza. Così, ogni volta che leggevo la parola di Dio, per avere una giusta comprensione del testo, tenevo presente il contesto storico, culturale e linguistico. Un impegno non indifferente, ma molto redditizio. Ma di fronte ad un ultimo interrogativo per me irrisolvibile, implorai Dio facendo un patto. Se tu mi dai una risposta soddisfacente, non dubiterò mai più l'ispirazione totale delle scritture. Dio conobbe l'angoscia del mio bussare e mi rispose. Da quel giorno la lettura della parola di Dio divenne ancora più preziosa e ricca. Ogni apparente contraddizione nascondeva mirabili disegni e risposte di Dio. Quasi quasi imparavo più dalle apparenti contraddizioni delle scritture che dal testo chiaro e inequivocabile. Così Dio coordinava nel mio spirito un complesso di verità che un tempo mi erano parse confuse e persino contraddittorie. Mi resi conto che avevo bisogno di ulteriore conoscenza. Dopo aver letto ostinatamente e sistematicamente solo la parola di Dio per vari anni, cominciai a leggere dei libri e fare dei corsi per corrispondenza. Avevo una certa conoscenza delle scritture che mi permettevano di valutare ciò che leggevo e studiavo. Molti libri li ho letti più volte, altri li ho studiati sia nel contenuto sia nella loro forma di esposizione. Tutto per me era ragione di apprendimento. Vi erano riflessioni che disapprovavo subito, altre mi lasciavano degli interrogativi, altre ancora trovavano un eco nel mio essere. Le parole che leggevo al mattino erano ragione di riflessione per tutta la giornata e spesso erano di conforto e di ammaestramento per le circostanze della vita. Spesso sul lavoro, senza venir meno ai miei doveri, dovevo fermarmi per annotare le riflessioni che sorgevano improvvisamente nella mia mente. Molti studi sono sorti sul posto di lavoro, sviluppati e conclusi in seguito a casa. Tutta la giornata era un fuoco di artificio di versetti. Come una pallina di gomma, i versetti rimbalzavano armoniosamente nella mia mente, spiegandomi problematiche e interrogativi non indifferenti. Mentre scrivevo ciò che mi veniva nella mente, chiedevo a Dio di dettarmi più lentamente perché non ero in grado di seguire nell'annotare. Non c'era riposo. Non solo dovevo smettere di lavorare, ma dovevo pure fermare la macchina mentre ero in viaggio, dovevo smettere di mangiare e annotare, dovevo alzarmi di notte mentre ero in dormiveglia e scrivere, dovevo appartarmi per abbozzare alcune riflessioni mentre ero in una conversazione con altri. E tutto questo per scrivere ciò che avrei diversamente dimenticato qualche minuto dopo. Era lo Spirito Santo che decideva il momento opportuno, ed io dovevo accettare questa sua sovranità. Assetato di conoscere, avrei fatto qualsiasi cosa pur di raccogliere con riconoscenza le parole di Dio. A una cosa ero impreparato, che con l'aumentare della conoscenza aumentasse anche il dolore. Ecclesiaste 1:18. Desideravo ardentemente conoscere, ma non desideravo altrettanto il dolore. A volte ero tentato a evitare la conoscenza per non soffrire, ma mi resi conto però che la sofferenza mi rendeva ancor più partecipe a questa vita, perché ogni cosa in questo mondo è in travaglio, soffre. Le piante, gli animali, le persone. Quando poi il mio pensiero andava al mio Signore e Salvatore Gesù Cristo, che ha lasciato la gloria per soffrire come qualsiasi uomo, senza però peccare, ho preso maggior coraggio per portare la sofferenza della conoscenza, sperimentando quanto sia momentaneo e leggero il dolore. Vi è però un'altra verità. Con l'aumentare la conoscenza, aumentava anche uno smisurato peso eterno di gioia. Ciò fa parte dei piani di Dio, perché questo mondo si regge per la legge dell'equilibrio, degli opposti. Quindi, più grande è il dolore, più grande è la gioia. La gioia che Dio produce in me mi accompagna ogni istante, nella cattiva e nella buona sorte, nell'abbondanza e nella penuria, quando sono innalzato e quando sono abbassato. Una gioia del genere non è compresa dal mondo, perché è il risultato di ciò che sono e possiedo in Cristo, e non di ciò che sono e possiedo in questo mondo. Nella fornace ardente di questo mondo percepisco la presenza di Cristo, e la sua gioia è abbondante come sono le sue sofferenze. Ma se è una cosa che Dio non vuole, è una conoscenza solo a livello mentale. Egli vuole da tutti, ma soprattutto dai predicatori, che vivano quello che predicano, e questa è stata la mia vita. Dio non ha permesso che predicassi qualcosa senza che ne sperimentassi il contenuto. Ecco qualche testimonianza. Il mio studiare accanitamente la parola di Dio produsse i suoi frutti e fu subito notato dalla Chiesa. I miei interventi nelle riunioni informali erano appropriati e la Chiesa rimaneva edificata. Fu così che mi chiesto di predicare. Il mio primo sermone fu fatto in una casa di campagna alla presenza di una anziana coppia di contadini. In quel periodo il capitolo 2 della prima lettera ai Corinzi aveva profondamente toccato il mio cuore, così misi l'enfasi come Dio riveli le cose a coloro che lo amano e che noi abbiamo la mente di Cristo. I presenti furono edificati e ringraziarono Dio per questi doni. Vi era però un piccolo problema, anzi due. Io non volevo predicare, perché oltre che non essere un predicatore, avevo una forte balbuzie causata da un fattore nervoso. Comprendevo bene la parola di Dio, avevo delle riflessioni giuste, ma nell'esporle facevo molta fatica, e la balbuzie aumentava il disagio sia mio che della Chiesa, che con tanto amore mi ascoltava. Mi misi davanti a Dio in preghiera, mi lamentai della situazione anomala, addossai a Lui tutta la responsabilità delle conseguenze delle mie predicazioni, per tutto ciò che poteva coinvolgere la mia obbedienza a Lui. In seguito Dio mi venne incontro. Nella mia lettura quotidiana i miei occhi si posarono su un passo di Isaia: sarà infatti mediante labbra balbuzienti e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo. Isaia 28:11. Vidi questa affermazione come rivolta a me. Accettai la mia balbuzie e il mio animo trovò serenità. Passò del tempo e i miei occhi caddero in seguito su un altro passo di Isaia: il cuore degli sconsiderati acquisterà conoscenza e la lingua dei balbuzienti parlerà speditamente e chiaramente. Isaia 32:4. Non potevo certamente applicare a me ogni profezia, ma qualcosa nel mio cuore mi diceva che ciò era possibile anche per me. Cominciai a gustare questa promessa. Nella mia serenità pregavo speditamente e i miei fratelli se ne accorsero. Un giorno mi fecero notare come non balbettassi più mentre pregavo. Incoraggiato da questi risultati mi imposi di avere lo stesso atteggiamento di preghiera mentre parlavo con gli altri e, soprattutto, mentre predicavo. Il risultato fu straordinario. In poco tempo la mia balbuzie sparì al punto che posso partecipare a delle trasmissioni radiofoniche. A distanza di quasi 40 anni, vivo ogni istante questa promessa. Un giorno ero stato invitato a predicare in una città poco lontano da Modena. Avevo scelto come tema i miracoli come veicoli di rivelazione di Dio. Alla domenica mattina, prima di partire, feci colazione e subito dopo mi venne un singhiozzo come non mi era mai venuto. Subito non gli diedi molta importanza, ma quando salii in macchina per andare nella località per predicare il singhiozzo non dava nessun cenno di diminuire. Durante il viaggio, mentre parlavo con mia moglie, notavo che non potevo dire cinque parole senza singhiozzare. come avrei fatto a predicare? Se fosse successo, altre volte forse lo avrei anche accettato, ma proprio ora che parlavo dei miracoli, non sapevo cosa pensare. Arrivai alla sala, salutai i fratelli con un singhiozzo che non dava cenni di diminuire sia nella densità che nella quantità. Cominciò la riunione, cantai come potei perché il singhiozzo era veramente inesorabile. Si arrivò all'ultimo inno, all'ultima preghiera, ed io avevo un singhiozzo che si faceva udire da tutti. Si alzò il fratello per presentarmi e mi invitò a predicare. «E adesso come faccio?» dissi fra me. Continuavo ad essere sereno fino all'ultimo perché ormai avevo addossato la responsabilità a Dio di ogni mia predicazione. Mi alzai e andai verso il pulpito. Come salì sul pulpito, il singhiozzo sparì e potei parlare dei miracoli con una forte convinzione. Ero sposato da un anno. Mia moglie lavorava ed io tornavo a casa prima di lei. In uno di quei giorni, mentre l'aspettavo, lessi nel libro del Deuteronomio. Il versetto 3 del capitolo 8 compì profondamente il mio spirito. Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Deuteronomio 8, 3. Dunque Dio aveva condotto il popolo di Israele in situazioni difficili e impossibili, per insegnargli che se era ancora in vita ciò era dovuto al suo volere. La nostra esistenza non dipende solo dalla cura che abbiamo di noi, ma anche dal volere di Dio. Una situazione impossibile rende possibile l'evidenza della sovranità di Dio. Ero così felice che Dio mi avesse fatto comprendere correttamente questo famoso versetto che decisi di predicarlo alla prima occasione. Venne la domenica opportuna e, come di consueto, partì con la macchina per andare a prendere dei bambini e portarli in sala, ma in una curva sbandai finendo contro un palo. Battei violentemente la testa, ruppi il vetro, ma rimasi vivo e cosciente. Molto gentilmente qualcuno mi portò a casa e, a piedi, andai con mia moglie in sala. Al mio turno mi alzai, lessi il passo di Deuteronomio 8:3 e iniziai a dire: «Cari fratelli, la verità di oggi è che se noi siamo in vita, è per volere di Dio e non solo perché ci prendiamo cura di noi». In quel momento solo due persone sapevano cosa stavo dicendo, sapevamo che il mio parlare non era retorico. Ancora una volta le mie parole avevano la potenza di un'esperienza? Sì. Volente o nolente, Dio mi ha sempre condotto a sperimentare ciò che Egli mi rivelava. Mi ha imposto un stile di vita che io non avrei scelto. Più volte, dopo aver predicato, dei credenti mi hanno avvicinato per chiedermi chi era colui che mi aveva rivelato i loro problemi. Un anziano di una chiesa, subito dopo un mio messaggio, mi corse incontro visibilmente turbato, dicendomi che dovevo dire ad una coppia che lui non mi aveva rivelato nulla dei loro problemi, tanto avevo detto cose precise al loro riguardo. Quando lo Spirito ispira, quando il predicatore parla per lo Spirito, i risultati sono nelle mani di Dio. E questa è una testimonianza che possono dare tutti coloro che hanno preparato delle riflessioni con impegno, serietà e preghiera. Proprio per questo a volte ho fatta mia la lamentela di Geremia: «Guai a me, madre mia, perché mi hai partorito come uomo di lite e di contesa per tutto il paese». Geremia 15:10. Non è facile per nulla avere non solo un ministero di consolazione, ma anche quello di correzione, di riprensione, di mettere in discussione luoghi comuni. Si va molto più d'accordo con il pubblico, essendo sempre consenzienti, che esprimendo opinioni opposte o iconoclastiche. Molti profeti come Geremia non volevano predicare, ma la parola di Dio in loro era più forte. Quante volte non avrei voluto predicare ciò che Dio mi aveva messo in cuore? Ma dovevo scegliere se andare d'accordo con Dio o con gli uomini, se piacere agli uomini o a Dio? Ma altri interrogativi erano alla porta. E se ciò che sentivo di dire non era da Dio? Se ciò che avevo in cuore mediante la preghiera e la lettura delle scritture fosse stata una mia opinione? Domande più che giuste, ma la prova del 9 toglieva ogni dubbio. Quelle volte che ho ricalcitrato gli stimoli, qualcuno predicava ciò che dovevo dire io. Sì. Dio parla comunque, che la Chiesa lo voglia o no. Vi sono altre esperienze che confermano la validità di ciò che afferma la parola di Dio. Proprio per il mio ministero e anche per una mia propria caratteristica, più volte, preceduto quasi sempre da un presentimento dello Spirito Santo, sono stato umiliato. Ero disprezzato, sia privatamente che pubblicamente, ed io accettavo questo stato di cose da parte di Dio, almeno per tre ragioni. Il Dio dei cristiani è un Dio che umilia. Lamentazioni 3:3. Essere umiliati fa bene. 2 Corinzi mezzogiorno e 10. Mediante la sofferenza si conosce più appieno, e altrettanto si realizza la vita di Cristo. Filippesi 3:10. Mi rallegravo in Dio, e aspettavo di vedere le sua opera. Salmo 111:2. Quante volte la mia testimonianza è stata efficace nella sofferenza? Quante anime ho visto strappate dal potere di Satana? Quando avevo un cuore straziato, più ero disprezzato, umiliato, deriso, schernito, più erano presenti la pace e la gioia di Cristo e più era efficace il mio ministero di evangelizzazione, di consolazione. Poco dopo la mia conversione, Dio mi mise in cuore di portare alla salvezza un'anima ogni anno, mediante il ministero di casa in casa, che facevo regolarmente una volta alla settimana. E più volte ho visto coppie di sposi arrendersi all'autorità della parola di Dio. E tutto questo perché la gloria fosse data solo a Dio, perché non si dica, nelle assise dei cieli, che l'uomo abbia prodotto qualcosa di buono e durevole. È vero che l'orgoglio è innato in tutti, è vero che la vanità e la superbia spuntano ad ogni angolo. Ma più uno è umiliato, più è consapevole della sua indegnità, più sarà indotto a vivere confidando sulla misericordia di Dio. Ho letto in una Bibbia di una sorella in fede la seguente preghiera scritta di suo pugno: «O Signore, aiutami a non sentirmi brava, a non sentirmi meglio degli altri, a non sentirmi meritevole, ma a ricercare e a vedere soltanto la tua gloria e la tua grazia». Una preghiera lodevole con un sapore di spiritualità, ma che tradisce alcuni aspetti. La sorella è una donna virtuosa, lo sa, e comprende il pericolo di cadere nell'orgoglio. Se però quella sorella in fede fosse uscita da una vita di prostituzione, dalla droga, la sua preghiera avrebbe avuto contenuti diversi. Quando le persone virtuose affermano che siamo tutti uguali, mi chiedo a cosa si riferiscono, ma anche in questo campo, Dio non mi ha risparmiato colpi. Alleluia! In una lettura quotidiana lo Spirito minò alla base ogni mia presunta qualità morale e virtuosità. Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Matteo 7:11. Queste parole mi colpirono come un pugno nello stomaco. Da quel momento non fui più l'uomo di prima. In me non nacque mai più un sentimento di perbenismo. Mi riconobbi come il peggior uomo sulla terra. Non è mia usanza attribuire al diavolo le mie colpe o ciò che fa parte della mia natura peccaminosa. Ma credo che il maligno avesse esagerato quando, in certi momenti, mi dava da credere di essere l'anticristo. Tanto mi vedevo corrotto. Comunque sia, quel benedetto e prezioso colpo inferto al mio orgoglio ha fatto sì che una volta per tutte io sia cosciente in ogni circostanza della mia incapacità, inadeguatezza, malvagità. E tutto ciò risuona strano, sicché è una colpa che mi è stata spesso attribuita, è proprio quella di essere orgoglioso. Ma i metodi di Dio sono inversi a quelli del mondo. La persona più forte nella fede è quella che è consapevole della sua incapacità e debolezza. Quella più grande è quella che serve. Il coraggioso è quello che è consapevole del timore che è dentro di lui. La persona più umile è quella che è cosciente di essere indegna, ma ricca e potente in Dio. Per arrivare a questo stadio bisogna però cadere dal cavallo della propria moralità, come l'apostolo Paolo. E quando si cade una sola volta. Ma molto probabilmente le mie parole e il mio agire resteranno fraintesi da molti, soprattutto fino a quando non ci sarò più. E trovo che ciò sia giusto, in conformità come sempre a ciò che Dio insegna, perché senza una spina nella carne, malvagio come sono, non oso pensare ad un futuro senza l'opera quotidiana di Gesù Cristo in me. La mia vita è stata condizionata non solo dalla mia conversione, ma da come mi sono arreso a Dio. Quando consacrai la mia vita a Gesù Cristo non ero ateo. La consapevolezza che Dio esistesse è sempre stata presente nel mio cuore e nella mia mente, perciò, quando lottavo con Dio per non arrendermi, non era tanto per arrivare a credere in Lui quanto perché dovevo lasciare la mia gioventù, il mio futuro, la mia stessa mente nelle sue mani. Dovevo spogliarmi di tutto, perfino del mio essere, perché uno è ciò che pensa. Proverbi 23:7. Dio avrebbe deciso di me ciò che voleva. Dopo aver pianto lungamente per 3 volte, mi arresi alla sua sovranità. Questa esperienza ha caratterizzato fortemente il mio messaggio, sia di evangelizzazione che di esortazione per la Chiesa. Col tempo mi sono reso conto che il mio messaggio, pur contenendo gli elementi della fede cristiana, era inevitabilmente espresso attraverso la mia personalità e perciò esposto diversamente da altri. Quante persone che pensavano di credere in Cristo dopo una conversazione guidata da Dio attraverso me si sono veramente arrese a Cristo. Un giorno una sorella mi confidò che pensava di aver creduto e aveva chiesto il battesimo. Passati alcuni anni ebbe occasione di parlare con me. E nella conversazione le dissi: «Per me tu sei solo una persona religiosa». Quella frase non la lasciò più in pace e in seguito si convertì. Quante anime come quella sorella ho visto diventare figli di Dio! Quanti figli di credenti che pensavano di essere dei cristiani e dopo una conversazione hanno affermato: «Se essere un cristiano significa credere come tu dici, io non lo sono». La parola di Dio e l'esperienza della mia conversione mi hanno indotto a presentare il messaggio di salvezza, ponendo in enfasi la sottomissione totale a Gesù Cristo quale Signore e Padrone. I tempi sono maturi dove ognuno vuole ascoltare ciò che più concorda con le proprie opinioni e con i propri sentimenti, e se la Chiesa non si rende conto di addolcire il traumatico e scandaloso messaggio del Vangelo, presto avremo una generazione di pseudocristiani. Se Gesù quando torna non trova la fede sulla terra, i maggiori responsabili ne saranno i cristiani. Ho anche constatato che se il mio Evangelo porta alla conversione le anime perdute, non ha lo stesso effetto per i credenti. Molti di questi si sentono attaccati, non desiderano mettersi in discussione, non vogliono scombussolamenti, non desiderano prendere delle prese di posizioni, evitano le parole dirette e incisive. La parola di Dio per loro è una intromissione illecita e scomoda nella loro quotidianità. Dopotutto essi hanno un cobus su Cristo come Salvatore e Signore, perché dovrebbero anche realizzare che Egli li libera dal peccato e vincolare la loro comportamento al suo volere? Per natura anch'io sono tentato ad avere una simile reazione, ma con volontà ubbidisco alle parole di Cristo, non perché combacino con le mie convinzioni, perché mi piacciono o siano piacevoli o perché ne riceva un vantaggio terreno, ma perché non sono più padrone della mia volontà, avendola deposta ai piedi di Dio una volta per sempre. Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Apocalisse 7:12. La parola di Dio per me non è solo un libro che consola, uno dei tanti doni di Dio, ma è la mia stessa vita. Essa ha formato lentamente i miei pensieri, la mia personalità, il mio carattere, la mia volontà, le mie ambizioni, i miei desideri, le mie emozioni. Mi trovo non più a pensare con la mia mente, ma con la mente di Cristo. Un giorno ero a predicare in una località ed ero ospitato da un fratello anziano di vita cristiana e conduttore di una chiesa. Si parlava della necessità di evangelizzare e di agire con una certa prudenza. A un certo punto il fratello disse: «Infatti sta scritto che bisogna essere astuti come i serpenti e semplici come delle colombe». Io lo corressi, dicendo che la scrittura ci ordina di essere prudenti e non astuti. Il fratello replicò dicendo che mi sbagliavo. Siccome insistevo sulla mia opinione, prese 3 Bibbie di versioni diverse e lesse. Nella prima lesse che bisognava essere prudenti come serpenti, lesse la seconda e la terza versione, Il versetto non cambiava. Il fratello rimase di sasso, mise le mani sul viso e con un'esclamazione di massimo sconforto disse: «Mio Dio, ho sempre letto quello che avevo nella mia mente». Poi, rivolgendosi a me, esclamò: «Da ora in poi, fratello, leggerò ciò che è scritto. Non desidero essere frainteso, ma Dio mi ha dato il dono di leggere con un massimo scarto di preconcetti. Come mai? Quando uno legge la scrittura ogni giorno per delle ore, arriva ad imparare a memoria molti brani. Eppure, anche se questa è la mia esperienza, ancora oggi riesco a leggere la parola di Dio come se fosse la prima volta. Leggo la scrittura senza sapere ciò sarà scritto in seguito. Per aiutarmi ad avere questa capacità, uso sempre la mia Bibbia personale che non è sottolineata. Una Bibbia sottolineata impone a ricordare del continuo ciò che si è già imparato. Proprio per questo metodo ho avuto delle chiarezze che molte volte hanno scardinato luoghi comuni e preconcetti. Purtroppo sono molti i credenti che sono un eco, che si rubano le parole gli uni con gli altri, impoverendo così la Chiesa del cibo di cui ha bisogno. Se non sorgono al più presto uomini e donne che sanno ascoltare la voce di Dio e trasmetterla fedelmente, l'anoressia spirituale della Chiesa è inevitabile. Se Dio nella sua misericordia non mi avesse condotto a leggere la sua parola, mi chiedo dove e cosa farei ora. Posso affermare onestamente e obiettivamente con l'Apostolo Paolo che un tempo ero insensato, ribelle, errante, schiavo di varie concupiscenze e voluttà, vivevo nella cattiveria e nell'invidia, odioso e odiavo gli altri. Tito 3:3. Sono profondamente convinto che se la parola di Dio non avesse operato in me, condizionando e rendendo prigionieri il mio pensare e agire, non sarei nelle migliori condizioni di certi relitti del genere umano. Il mio maledetto e ostinato romanticismo avrebbe avuto il suo sopravvento sui miei sentimenti personali e soggettivi, rendendo la mia vita un'anticamera dell'inferno. E ciò che affermo non è retorica, ma una profonda consapevolezza di chi sono, la debolezza incarnata. Ma siano rese grazie a Dio, perché conoscendo Gesù Cristo e la sua parola, mi sento importante. Io sono importante perché sono stato e sono per l'eternità amato da Dio in Cristo. Sono stato predestinato a diventare figlio di Dio, a conoscere la sua volontà, ad essere erede e coerede di Cristo. La parola di Dio ha infuso in me un senso di sicurezza mentre cammino in questo mondo corrotto e anche quando andrò alla presenza di Dio, perché sono giustificato per il sangue di Cristo. So che la verità è una persona, Gesù Cristo, e che appartengo alla schiera dei santi. Mediante la parola di Dio ho compreso che Dio mi ha accettato così come ero e mi accetta ora nonostante, o meglio proprio perché sono malvagio. Egli sa che non nasco come prodotto finito e aspetta pazientemente che mi lasci trasformare all'immagine di suo figlio. Le scritture mi hanno fatto conoscere l'amore di Dio, che il suo amore è sparso nel mio cuore per lo Spirito Santo e perciò ho la capacità di esercitare il vero amore verso il prossimo. So che i miei peccati passati, presenti e futuri non sono un problema per Dio, perché suo figlio mi ha riconciliato con il Padre mediante la sua morte e resurrezione. Io sono e mi sento quindi amato, perché la parola di Dio ha suscitato in me tale consapevolezza. Dio mi ha fatto comprendere, mediante la sua parola, che mi apprezza, mi incoraggia, che comunque vadano le cose, nessuna situazione o persona mi rapirà dalla sua mano. In ogni situazione sono più che vincitore. Oppure compreso, nel leggere la parola di Dio, che il suo amore non è sentimentalismo, ma si esprime pure con la disciplina. Io sono un figlio di Dio che cresce di giorno in giorno nella sicurezza, perché so che è un padre che si cura di me e mi corregge. Le scritture mi hanno fatto pure comprendere che se sono assetato di Dio è perché il suo spirito non mi lascia in pace finché non comprenda che il solo ed unico bene è Lui ed in Lui. Chi ho io in cielo fuor di te, e sulla terra io non desidero altri che te. Salmo 73, 25. Quando Gesù Cristo è il mio unico tesoro, non vi è sacrificio, non vi è perdita che si realizzi come un danno. perché non posso essere privato della fonte di ogni bene che mi ha afferrato. La lettura quotidiana della parola di Dio è stato il più valido contributo quotidiano al benessere di tutto il mio essere fisico e spirituale. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Salmo 73, 26. Per questo io amo, leggo, studio e imparo a memoria la parola di Dio. Quando sono diventato figlio di Dio, ho iniziato per istinto. Quando non la comprendevo, ho continuato con una fede ragionata. Quando la parola di Dio è diventata per me la mia mente, la mia forza, la mia volontà, le mie emozioni, in definitiva la mia stessa vita, non potevo più farne a meno. E così, col passare del tempo, la parola di Dio mi si è sempre più rivelata alla mia mente e al mio cuore, per intrecciare una segreta relazione con Gesù Cristo, il mio Salvatore e Signore. Quando leggo la parola di Dio, non leggo solo un libro o delle parole, perché un libro e delle parole non possono scendere e saziare così profondamente nel mio essere e suscitare in me fede, speranza, amore. Quando leggo la parola di Dio, leggo quella parola che si è fatta carne, che ha abitato un tempo fra di noi, che era nel mondo, ma il mondo non l'ha conosciuto. Quindi, quando leggo la parola di Dio, leggo Gesù Cristo, il mio Salvatore, Signore, Padrone. Per questo non trovo nessun'altra ragione così valida e importante del perché io debba leggere e continuare, con santa ostinatezza, a leggere e studiare la parola di Dio. Dicembre 2000, Ellero.